Ad alta voce, Remo Girone legge La luna e i falò di Cesare Pavese. Undicesima puntata. Gli anni che vennero imparai molte cose da Nuto, o forse era soltanto che crescevo e cominciavo a capire da me. Ma fu lui che mi spiegò perché Nicoletto era così carogna. «È un ignorante», mi disse. «Crede, perché sta in Alba e porta le scarpe tutti i giorni e nessuno lo fa lavorare, di valere di più di un contadino come noi. E i suoi di casa lo mandano a scuola. Sei tu che lo mantieni, lavorando le terre dei suoi. Lui neanche lo capisce». Fu Nuto che mi disse che col treno si va dappertutto e quando la ferrata finisce cominciano i porti e i bastimenti vanno a orario. Tutto il mondo è un intrico di strade e di porti, un orario di gente che viaggia, che fa e che disfa, e dappertutto c'è chi è capace e chi è tapino. Mi disse anche i nomi di tanti paesi e che bastava leggere il giornale per saperne di tutti i colori. Così, certi giorni che erano ai beni, nelle vigne sopra la strada, zappando al sole, e sentivo tra i peschi arrivare il treno e riempire la vallata filando o venendo da Canelli, in quei momenti mi fermavo sulla zappa, guardavo il fumo, i vagoni, guardavo Gaminella, la palazzina del Nido, verso Canelli e Calamandrana, verso Calosso, e mi pareva di aver bevuto del vino, di essere un altro, di essere come Nuto, di arrivare a valere quanto lui, e che un bel giorno avrei preso anch'io quel treno per andare chissà dove. Anche a Canelli c'ero già andato diverse volte in bicicletta e mi fermavo sul ponte di Belbo, ma la volta che ci trovai Nuto fu come se fosse la prima. Lui era venuto a cercare un ferro per suo padre e mi vide davanti allo spaccio che guardavo le cartoline. «Allora te le dan già queste sigarette?» mi disse sulla spalla all'improvviso. Io, che studiavo quante biglie colorate ci stanno in due soldi, mi vergognai e da quel giorno lasciai perdere le biglie. Poi girammo insieme e guardammo la gente che entrava e usciva nel caffè. I caffè di Canelli non sono osterie, non si beve vino, ma bibite. Ascoltavamo i giovanotti che parlavano dei fatti loro e dicevano calmi, calmi, storie grosse come case. Nella vetrina c'era un manifesto stampato con un bastimento e degli uccelli bianchi e senza neanche chiedere a Nuto capii che era per quelli che volevano viaggiare, vedere il mondo. Poi ne parlammo e lui mi disse che uno di quei giovanotti, uno biondo vestito con la cravatta e i calzoni stirati, era impiegato nella banca dove andavano a mettersi d'accordo quelli che volevano imbarcarsi. Un'altra cosa che sentii quel giorno fu che a Canelli c'era una carrozza che usciva ogni tanto con sopra tre donne, anche quattro, e queste donne facevano una passeggiata per le strade, andavano fino alla stazione, a Sant'Anna, su e giù per lo stradone e prendevano la bibita in diversi posti. Tutto questo per farsi vedere, per attirare i clienti, era il loro padrone che l'aveva studiata. E poi, chi aveva i soldi e l'età, entrava in quella casa di Villanova e dormiva con una di loro. «Tutte le donne di Canelli fanno questo», dissi a Nuto quando l'ebbi capita. «Sarebbe meglio, ma non è», disse lui. «Non tutte girano in carrozza». Con Nuto venne un momento, quando avevo già 16-17 anni e lui stava per andare soldato, che o lui o io arraffavamo una bottiglia in cantina e poi ce la portavamo sul salto. Ci mettevamo tra le canne se era giorno, sulla proda della vigna se c'era la luna e bevevamo alla bocca discorrendo di ragazze. La cosa che non mi capacitava a quei tempi era che tutte le donne sono fatte in un modo. Tutte cercano un uomo. È così che deve essere, dicevo pensandoci. Ma che tutte, anche le più belle, anche le più signore gli piacesse una cosa simile, mi stupiva. Allora ero già più sveglio, ne avevo sentite tante e sapevo, vedevo come anche Irene e Silvia correvano dietro a questo e a quello. Però mi stupiva. È nuto a dirmi: cosa credi? La luna c'è per tutti, così le piogge, così le malattie. Hanno un bel vivere in un buco o in un palazzo. Il sangue è rosso dappertutto. Ma allora cosa dice il parroco? Che fa peccato? Fa peccato il venerdì, diceva Nuto asciugandosi la bocca. Ma ci sono altri 6 giorni. Ma lavoravo la mia parte e adesso Cirino qualche volta stava a sentire quel che dicevo di un fondo e mi dava ragione. Fu lui che parlò al Sor Matteo e gli disse che doveva aggiustarmi. Se volevano tenermi sui beni, che stessi dietro al raccolto e non scappassi per nidi coi ragazzi, bisognava mettermi a giornata. Adesso zappavo, davo lo zolfo, conoscevo le bestie, aravo. Ero capace di uno sforzo. Per mio conto avevo imparato a innestare e l'albicocco che c'è ancora nel giardino l'ho inserito io sulle prugne. Il Sor Matteo mi chiamò un giorno sul terrazzo, c'era anche Silvia e la signora, e mi chiese che fine aveva fatta il mio padrino. Silvia stava seduta sullo sdraio e guardava la punta dei tigli, la signora faceva la maglia. Silvia era nera di capelli, vestita di rosso, meno alta di Irene, ma tutte e due figuravano più della matrigna. Avevano almeno 20 anni. Quando passavano col parasole, io dalla vigna le guardavo come si guarda 2 pesche troppo alte sul ramo. Quando venivano a vendemmiare con noi, me ne scappavo nel filare dell'Emilia e di là fischiavo per mio conto. Dissi che padrino non l'avevo più visto e chiesi perché m'aveva chiamato. Mi seccava di avere i calzoni da verderame e anche gli spruzzi sulla faccia. Non mi ero aspettato di trovarci le donne. A pensarci adesso è chiaro che il Sor Matteo l'ha fatto apposta per confondermi. Ma in quel momento, per darmi coraggio, pensai soltanto a una cosa che l'Emilia ci aveva detto di Silvia. Per quella lì dorme senza la camicia. Lavori tanto, mi disse quel giorno il Sor Matteo, e hai lasciato che il padrino sprecasse la vigna. Non ce n'hai di puntiglio. Sono ancora ragazzi, disse la signora, e già chiedono la giornata. Avrei voluto sprofondare. Dallo sdraio Silvia girò gli occhi e disse qualcosa a suo padre. Disse: è andato qualcuno a pigliare quei semi a canelli? Al nido i garofani sono già fioriti. Nessuno le disse: vacci tu. Invece il Sor Matteo mi guardò un momento e borbottò: la vigna bianca è già finita? Finiamo stasera. Domani c'è da fare quel traino. Ha detto che ci pensa il massaro. Il Sor Matteo mi guardò di nuovo e mi disse che io ero a giornata con vitto e alloggio e doveva bastarmi. Il cavallo s'accontenta, mi disse, e lavora più di te. S'accontentano anche i manzi. Elvira, ti ricordi quando è venuto questo ragazzo che sembrava un passerotto? Adesso ingrassa, cresce come un frate. Se non stai attento, mi disse, a Natale t'ammazziamo insieme con quell'altro. Silvia, disse, c'è nessuno che va a Canelli? Diglielo a lui, disse la matrigna. Sulla terrazza arrivarono Santina e l'Emilia. Santina aveva le scarpette rosse e i capelli sottili, quasi bianchi. Non voleva mangiare la pappa e l'Emilia cercava di prenderla e riportarla dentro. «Santa Santina!» disse il Sor Matteo alzandosi. «Vieni qui che ti mangio!» Mentre facevano le feste alla bambina, io non sapevo se dovevo andarmene. La vetrata della sala luccicava e guardando lontano oltre Belbo si vedeva Gaminella, i canneti, la riva di casa mia. mi ricordai le 5 lire del municipio. Allora dissi al sor Matteo, che faceva saltare la piccola, devo andare a Canelli domani? Chiedilo a lei. Ma Silvia gridava dalla ringhiera che l'aspettassero. Irene in biroccio passava sotto il pino con un'altra ragazza, le conduceva un giovanotto della stazione. Mi portate a Canelli? Gridò Silvia. Un momento dopo erano tutte via. La signora Elvira rientrava in casa con la piccola. Le altre ridevano sulla strada. Dissi al sor Matteo, una volta l'ospedale pagava 5 lire per me. Da un pezzo non le ho più viste e chissà chi le prende. Ma io lavoro per più di 5 lire. Devo comprarmi delle scarpe. Quella sera fui felice e lo dissi a Cirino, a Nuto, all'Emilia, al Cavallo. Il sor Matteo mi aveva promesso 50 lire al mese, tutte per me. La Serafina mi chiese se volevo far banca da lei. A tenerle in tasca le perdevo. Me lo chiese che c'era Nuto presente. Nuto si mise a fischiare e disse che è meglio 4 soldi in mano che 1 milione in banca. Poi l'Emilia cominciò a dire che voleva un regalo da me e tutta la sera si parlò dei miei soldi. Ma, come diceva Cirino, adesso che ero aggiustato mi toccava lavorare come un uomo. Io non ero cambiato per niente, stesse braccia, stessa schiena, mi dicevano sempre anguilla, non capivo la differenza. Nuto mi consigliò di non prendermela. Mi disse che probabilmente, se me ne davano 50, lavoravo già per 100 e perché non mi compravo l'ocarina. Non ci riesco a imparare a suonare, gli dissi. È inutile, son nato così. Se è tanto facile, lui disse. La mia idea era un'altra. Pensavo già che con quei soldi un bel giorno avrei potuto partire. Invece i soldi dell'estate li sprecai tutti alla festa, al tirassegno, in sciocchezze. Fu allora che mi comprai un coltello col fermaglio, quello che mi servì a far paura ai ragazzi di Canelli la sera che mi aspettavano sulla strada di Sant'Antonino. Se uno girava un po' sovente per le piazze guardandosi intorno, a quei tempi finiva che l'aspettavano col fazzoletto legato intorno al pugno. E una volta, dicevano i vecchi, era stato ancor peggio. Una volta si ammazzavano, si davano coltellate. Sulla strada di Camo c'era ancora la croce a uno strapiombo dove avevano fatto ribaltare un biroccino con 2 dentro. Ma adesso ci aveva pensato il governo con la politica a metterli tutti d'accordo. C'era stata l'epoca dei fascisti che picchiavano chi volevano, d'accordo coi carabinieri, e più nessuno si muoveva. I vecchi dicevano che adesso era meglio. Anche in questo Nuto era più in gamba di me. Lui già allora girava dappertutto e sapeva ragionare con tutti. Anche l'inverno che parlò con una ragazza di Sant'Anna e andava e veniva di notte, nessuno gli disse mai niente. Sarà che cominciava in quegli anni a suonare il clarino e che tutti conoscevano suo padre e che lui nelle gare del pallone non ci metteva mai becco. Fatto sta che lo lasciavano girare e scherzare senza segnarselo. Lui a Canelli conosceva diversi e già allora, quando sentiva che volevano suonarle a qualcuno, gli dava degli ignoranti, degli scemi. Gli diceva che lasciassero quel mestiere a chi era pagato per farlo. Li faceva vergognare. Gli diceva che sono soltanto i cani che abbaiano e saltano addosso ai cani forestieri e che il padrone aizza un cane per interesse, per restare padrone. Ma se i cani non fossero bestie, si metterebbero d'accordo e abbaierebbero addosso al padrone. Dove pigliasse queste idee, non so, credo da suo padre e dai vagabondi. Lui diceva che era come la guerra che si era fatta nel 18. Tanti cani scatenati dal padrone perché si ammazzassero e i padroni restare a comandare. Diceva che basta leggere il giornale, i giornali di allora, per capire che il mondo è pieno di padroni che aizzano i cani. Mi ricordo sovente di questa parola di Nuto in questi tempi, certi giorni che non hai neanche più voglia di sapere quel che succede. e soltanto andando per le strade vedi i fogli in mano alla gente neri di titoli come un temporale. Adesso che avevo i primi soldi, mi venne voglia di sapere come vivevano Angiolina, la Giulia e Padrino. Ma non trovavo mai l'occasione di andarli a cercare. Chiedevo a quelli di Cossano, che passavano sullo stradone i giorni della vendemmia, portando il carro dell'uva a Canelli. Uno venne a dirmi una volta che mi aspettavano. La Giulia mi aspettava. Si ricordavano di me. Io chiesi com'erano adesso le ragazze. «Che ragazze?» mi disse quel tale. «Sono due donne». Vanno a giornata come te. Allora pensai proprio di andare a Cossano, ma non trovavo mai il tempo ed inverno la strada era troppo brutta. Remo Girone ha letto La luna e i falò di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.